piatto per celebrare la vittoria. L'eventuale vittoria. Ma vittoria darei quasi, insomma, spero che sia un uno pieno, ma direi, andrei sul sicuro, farei una spaghetti al pomodoro con, sì, con due semi di basilico, proprio semi di basilico, semi, che riprende un po' il rosso nero. Sì, piano, semplice. Sì, semplice. Semplice, basico, senza... Però perfetto. Però perfetto, questo deve essere impeccabile. E dall'altra parte invece, se vi riesce il colpetto che vi avvicinate un po' di più? No, queste cose non vanno mai dette, no, ho certo imparato nelle precedenti interviste. Io direi solo che offrirei magari il mio riso alla milanese, quello dove non cucino zafferano con il riso, ma lo metto, se faccio un'infusione di zafferano, lo metto sopra un velo di riso. Perfetto. Per far vedere che comunque l'innovazione fa parte anche della tradizione, no? Quindi proporrei sicuramente il mio modo di vedere il riso allo zafferano, un piatto che abbiamo fatto per ogni età e che piano piano stiamo portando avanti in maniera molto solida e forte sulla tradizione. Easy.